Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Buongiorno a tutti e bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, dove spesso, anzi sempre, parliamo con insistenza del Pioniere, questo giornalino del dopoguerra nell'alveo della sinistra, in particolare del Partito Comunista Italiano, legato ai nomi di Gianni Rodari e Dina Rinaldi. Ma oggi invece andiamo dove tutto iniziò, là in quell'Unione Sovietica che per prima vede l'esperienza dei pionieri. E per capire che fenomeno fosse questa mobilitazione giovanile, parliamo con Dorena Caroli, una studiosa ricercatrice che tra l'altro ha approfondito i suoi studi proprio sull'Unione Sovietica, che ha prodotto questo libro che è Ideali, ideologie e modelli formativi, il movimento dei pionieri in URSS dal 22 al 39, che peraltro poi è il frutto di tesi di laurea in lingue e letteratura straniere moderne presso proprio l'Università di Bologna. Vedremo nel corso di questa della prossima puntata come il movimento dei pionieri in URSS ha avuto tre momenti: uno innovativo rivoluzionario sotto Lenin, uno militarizzato sotto Stalin e un'organizzazione di massa ricreativa sotto Brezhnev dagli anni 70. Ma dopo uno stacco musicale, subito intervista di Moreno Moretti a Dorena Caroli. Lei si è occupata con un importante lavoro di ricerca del movimento dei pionieri in URSS tra il 1922 e il 1939. La prima cosa che ci incuriosisce è intanto perché questa ricerca e poi come nasce il movimento dei pionieri in URSS, quando nasce e se aveva anche qualche rapporto con gli scout, che era un movimento europeo e che la Russia, anche zarista, era già presente. Diciamo che il movimento dei pionieri nasce in un modo abbastanza spontaneo, perché esistevano già dei gruppi di scout. Questo desiderio dei ragazzi di riunirsi in gruppo ha attraversato un po' la storia della gioventù. Già dall'inizio del secolo, quando si diffondono le idee di Baden-Powell in Europa, anche la Russia vede nascere dei gruppi, soprattutto nella capitale zarista, San Pietroburgo. E naturalmente si tratta di gruppi di adolescenti che avevano un'origine sociale, potremmo dire borghese, quindi non erano certo ragazzi lavoratori come invece sono i pionieri. I pionieri nascono infatti come gruppo spontaneo tra i tipografi di Mosca, ma fanno a mano sempre più adepti, perché c'è questo desiderio di organizzarsi soprattutto dopo la rivoluzione d'ottobre. Naturalmente con l'avvento di un nuovo regime c'è chi aderisce, che ha questi ideali bolscevichi e che vuole difenderli, vuole diffonderli. Per questo motivo il movimento nasce, ma all'inizio molto timidamente, e poi si sviluppa con alti e bassi nell'arco del ventennio che ho trattato io, ma anche dopo la Seconda Guerra Mondiale. Diciamo, i miei studi si sono concentrati originariamente su questa fase del ventennio, all'interno della quale possiamo notare anche dei momenti di sviluppo che hanno delle proprie caratteristiche, che hanno dei propri ideali, una funzione particolare in funzione dell'ideologia comunista. Ma in questo periodo, Caroli, l'infanzia dopo la rivoluzione, appunto, Unione Sovietica, com'era? Cioè, in quali condizioni, dal punto di vista proprio delle condizioni sociali, economiche, di salute, di istruzione, in che stato era? Si tratta di condizioni di profonda deprivazione sociale, perché la Russia viene attraversato da un ciclo di guerre molto più lungo rispetto all'Europa. In Europa la guerra finisce col 18 e anche in Russia con l'armistizio. Tuttavia, naturalmente si può calcolare un ciclo di guerra molto più ampio, perché nel giugno del 18 scoppia già la guerra civile che attraversa il paese per 1000 chilometri di fronte, che vede appunto in guerra l'Armata Rossa contro i bianchi, cioè l'esercito filomonarchico. Questo ciclo di guerre viene seguito da una terribile carestia nell'estate del 21 che miete alcuni milioni di vittime, ma che lascia i bambini orfani, dai 3 ai 5 milioni di bambini orfani sulle strade in seguito alla carestia. Quindi possiamo dire che questo grave problema sociale ha compromesso l'istruzione, perché era un problema che veniva gestito proprio dal commissariato del popolo per l'istruzione, che dovette sacrificare i suoi esigui fondi, mezzi finanziari, proprio a favore dell'infanzia abbandonata. E anche per questo motivo il movimento dei pionieri nella sua prima fase di sviluppo era un movimento sporadico, legato ad alcune realtà urbane, non era diffuso in grande scala come accadde successivamente. Successivamente, voglio dire, nel secondo dopoguerra, ma era un movimento che aveva dei momenti di crisi che si spiegano col contesto. Infatti anche solo contestualizzando noi riusciamo a interpretare la complessità di questo periodo storico e lo possiamo interpretare anche attraverso le ricerche sull'infanzia. Erano giovani legati appunto al movimento rivoluzionario, queste organizzazioni si ponevano il problema dell'educazione e della formazione dei bambini e degli adolescenti. E che funzioni avevano quindi nella società i pionieri? I pionieri, come dice la parola stessa, dovevano diventare dei pionieri di una nuova cultura comunista. Quindi dovevano aiutare, diciamo, la formazione dell'uomo nuovo, quindi la formazione dell'uomo nuovo, un'educazione politica sociale, cioè una dimensione pubblica dell'agire e del pensare. Dovevano loro stessi farsi portatori dei messaggi dell'ideologia e nello stesso tempo cercare di coinvolgere altri adolescenti. Tuttavia, ma perché affidare questo compito, affidarlo a dei bambini e dei ragazzi, almeno in parte, ecco. Sì, sicuramente ha costituito una sfida, però questi bambini non avrebbero dovuto essere abbandonati a se stessi in questo compito di socializzazione, ma avrebbero dovuto essere sempre guidati da un giovane comunista. Infatti, Fascisti, l'organizzazione della gioventù comunista, cioè anche questa un'organizzazione nata dopo la rivoluzione, avrebbe dovuto guidare le sessioni dei pionieri, che erano più piccoli rispetto ai giovani comunisti. Appunto, i pionieri possiamo dire che includevano nelle sessioni bambini e adolescenti, soprattutto dai 12 ai 15-16 anni. E naturalmente il compito dell'organizzazione venne attribuito alla Komsomol, si chiama, cioè l'organizzazione della gioventù comunista, che non sempre fu particolarmente attiva, cioè si trattò di un compito che venne attribuito dall'alto, tuttavia non sempre venne espletato nel modo giusto, come testimoniano anche i documenti d'archivio. Tutti questi problemi di dissione erano problemi strutturali, ma anche legati a scarsità di organizzazione, oppure anche al profondo divario che c'era fra le città e le campagne. I modelli educativi erano quindi dei pedagogi, dei pedagogisti che comunque in quel periodo naturalmente costruirono anche una nuova pedagogia per l'infanzia, diciamo, che doveva appunto formare questa nuova generazione di comunisti. Certo, questo è l'aspetto cruciale del movimento, sicuramente, perché ci fa capire che questi modelli educativi sono il riflesso dell'ideologia ufficiale che attraversa una profonda evoluzione. Possiamo dire che anche questi modelli, nelle varie fasi, nel corso degli anni 20, attraversano dei cambiamenti. Potremmo dire che nella prima fase è un modello che ha una funzione di diffondere gli ideali della rivoluzione del 17, cioè la cultura proletaria del nuovo regime, che proponeva l'uguaglianza fra le classi sociali. Ecco perché questo attira molti giovani e adolescenti, ma soprattutto doveva favorire l'avvento di una società comunista più giusta, fondata sul lavoro operaio, proletario, nelle industrie. Però nella prima fase si tratta anche di un modello complesso, perché attinge alcuni valori dalla cultura proletaria di Bogdanov, ad esempio dai bolscevichi della vecchia guardia, ma anche dai valori dell'internazionale della gioventù comunista. E ad esempio la moglie di Lenin, la Krupskaya, fece tradurre in russo anche dei trattati che riguardavano la gioventù comunista tedesca. Dal punto di vista organizzativo si avvalevano anche dei metodi degli scout. Vecchi scout diventarono scout rossi, si organizzarono in sessioni con un capo. Quindi diciamo, se parliamo di modelli educativi, questa prima fase dal punto di vista ideologico è un po' ibrida, perché è caratterizzata da molte idee prima che il movimento elaborasse un modello proprio all'ideologia comunista, e questo avviene un po' più tardi, diciamo. La nascita viene collocata il 19 maggio del 22, però vediamo che la Russia si riprende soprattutto dalla guerra nella metà degli anni 20, ed è a partire dal 24-25 che possiamo collocare una nuova fase nella quale il movimento elabora un nuovo modello educativo, un modello educativo che è legato ad esempio anche alla memoria del culto di Lenin, che muore nel 24, oppure un altro aspetto importante è quello che lo lega alla scuola, perché ci si rende conto che il movimento ha bisogno di una base, quindi la scuola diventa lo spazio privilegiato di queste attività, naturalmente organizzate dall'insegnante, da un giovane comunista. E in seguito vediamo che alcuni discorsi ufficiali insistono proprio su tutta una serie di attività che i pionieri dovrebbero sviluppare. E quali sono queste attività? Attività naturalmente politiche, legate alle parate, a questa visibilità pubblica dei giovani comunisti, ma anche attività sociali, legate ad esempio all'assistenza ai bambini abbandonati, ma anche attività lavorative, collaborazione, aiuto ai contadini in campagna. seconda parte della trasmissione legata ancora una volta alla resistenza nel suo rapporto col fumetto e viceversa, una resistenza letta come elemento di quotidianità. È il tema comune di due storie raccontate nel fumetto La bicicletta di Emilia, dove due quotidiani episodi di resistenza vengono inseriti in importanti orizzonti di senso storico, creando un filo conduttore tra queste, seppur piccole, importantissime cosiddette battaglie di piccoli gesti. La prima Emilia è la giovane Oriana Fallaci, nome di battaglia Emilia durante l'occupazione fiorentina nazista. La seconda Emilia è una ragazza italiana dei giorni nostri che combatte contro il razzismo e il bullo della scuola, che aggredisce ripetutamente una sua compagna di origini africane. Dunque due problemi apparentemente molto diversi, ma che in fondo risultano essere due facce della stessa medaglia, quella del razzismo, dell'oppressione della libertà di pensiero e della paura della diversità. In questo panorama emergono le azioni di due ragazze, due eroine normali, che attraverso le loro azioni quotidiane compiono piccole ma grandi rivoluzioni. Ne parliamo con gli autori Davide Corazza e Francesco D'Onofrio. Questa storia appunto è nata dal voler dare una continuità tra quello che era la storia passata e la storia presente. Adesso abbiamo ribadito spesso che vi è, e non per fare della retorica, uno strappo tra le generazioni. C'è una grossa perdita, non tanto degli obiettivi del nostro paese, quanto più non c'è più il contatto con la storia in termini di identità. E noi abbiamo cercato di ricucire questa parte raccontando due storie parallele che sembrano essere molto distanti fra di loro, ma che in realtà sottendono una quotidianità molto simile e problematiche molto simili tra appunto queste tre, diciamo, non due quanto tre adolescenti. Abbiamo voluto utilizzare tra l'altro anche il genere femminile proprio perché spesse volte quello maschile è utilizzato nei fumetti e nel raccontare storie, diciamo, di eroismo e tutto. Noi abbiamo voluto utilizzare apposta, anche per lavori nostri precedenti, il genere femminile perché ci è sembrato quello più incline a questo parallelismo, poiché anche la differenza, diciamo, di problematiche è in realtà molto ricco e molto molto espressivo. Ho notato forse anche un po' un'ondata in questo senso, magari di storie volte a sempre un pubblico molto giovane, quindi voi raccontate questa storia di resistenza attraverso lo strumento del fumetto, e quindi appunto anche qui la scelta del fumetto un po' come è stata, se appunto è stata studiata apposta? Sì, no, assolutamente, no, è stata una scelta molto mirata proprio per quello. Anche lo stile magari dell'acquerello è voluto appunto per... Sì, allora in realtà ho suggerito in un certo senso a Davide di utilizzare questo stile appunto di paragonare i passaggi del passato e del presente riprendendoli da un fumetto che avevo visto che paragonando due storie comunque molto simili che si distanziano appunto a distanza di tempo tra due personaggi diversi ma che comunque seguono più o meno lo stesso percorso, gli avevo detto dai Davide prova a vedere un attimo questo stile qua, e lui sorprendentemente è riuscito a replicare fra l'altro anche quello stile, quindi insomma mi ha lasciato stupito e ha proprio centrato quel senso lì. L'idea appunto è quella di riprendere stilisticamente due storie differenti di due ragazze comunque simili in un certo senso ma che devono affrontare dei problemi diversi, ma in realtà la soluzione è sempre quella di non arrendersi all'ingiustizia e affrontarla qualunque sia la sua forma attraverso il tempo e anche nello spazio, perché appunto è ambientato in due momenti diversi, in due luoghi diversi, quindi comunque la battaglia è sempre quella, la resistenza è sempre contro uno stesso nemico idealmente, e quindi il messaggio è proprio quello. In questo modo ci sembrava più semplice trasmettere il concetto più puro ma anche più semplice da dover trasmettere attraverso questo fumetto. Io penso che ci si essere. Veda anche appunto strutturalmente per come è impaginato. Abbiamo detto che sono incolonnati, esatto, in una stessa pagina. La colonna di sinistra, che è quella diciamo color seppia un po' più anticata, è la storia degli anni 40, mentre invece quella a colori normali diciamo è quella nel presente. È indicato comunque, nel senso che c'è sempre il titolo della storia, che è proprio il luogo e l'anno di riferimento, con poi vari capitoli in ogni pagina, quindi in realtà è abbastanza semplice. Fra l'altro alla fine c'è una spiegazione di tutta la storia per poterla comprendere meglio nel momento in cui appunto non c'è un testo scritto nelle vignette, è più semplice anche da comprendere, insomma arriva. Cioè ci sarà una grande attenzione per i particolari, quindi per le scene. Esatto, il nostro fra l'altro è stato un lavoro complesso ma stimolante. Tutti e due avevamo già lavorato insieme, oltre ad essere amici comunque nel nostro privato, comunque abbiamo già lavorato insieme a un altro fumetto in passato che era Terry Dammi una Mano, ed era un fumetto contro la violenza sulle donne. Era un po' la prima volta per tutti e due, avevamo la formazione teorica entrambi su come si faceva, ma in effetti è stato un po' un battesimo, insomma, in questo senso. E il tentativo è stato proprio quello di pensare: ci sono questi passaggi della storia di Oriana Fallaci che appunto sono quelli, è la storia e rappresentano determinati momenti della sua vita. Idealmente mi sembrava di vedere proprio un climax narrativo, cioè proprio un primo capitolo in cui si visualizza il problema, si visualizza qual è il nemico, in questo caso gli invasori nazifascisti che appunto stanno invadendo la città di Firenze, e Emilia si rende conto che deve combattere e può combattere, quindi viene portata dal padre, dai partigiani. Allo stesso modo nel presente lo scherzo di un bullo fa capire alla Emilia del 2018 che lei in un certo senso non riesce più a sopportare questo abuso, questa ingiustizia da parte del compagno di classe, e per proteggere la sua migliore amica Marie, che è nigeriana, si alza in piedi e decide di combattere. In un secondo capitolo c'è un primo scontro con questi due avversari in un certo senso, il terzo e il quarto sono più invece una specie di rilassamento, nel senso che c'è una crescita a livello positivo, c'è una specie di interesse amoroso, il diventare donne, la prima uscita con un ragazzo, in entrambi i casi viene strutturato in modo diverso, per arrivare fino a un climax, diciamo, negativo, un climax di tensione. Tutte le storie ne hanno uno a un certo punto che porta a pensare che non tornerà mai più nulla come prima, e il finale in un certo senso ti dice: è finita bene, non finisce mai. In realtà nel quello del passato sappiamo che la liberazione c'è stata, però comunque dopo la storia ha presentato altre sfide, altri problemi. Nel presente il bullo in un certo senso è stato sconfitto, ma purtroppo probabilmente ci saranno altre battaglie da affrontare. Ma comunque la parabola, il climax in questo caso qui ovviamente è stato risolto in un certo senso, quindi il finale si apre come una finestra idealmente su un futuro comunque nel quale si sa che se è combattuta l'ingiustizia si potrà combattere ancora. Questa mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questa mattina mi sono alzato ed ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Bel partigiano, portami via e mi sento di morir. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. Storie, i fumetti guardati dal calendario. A cura di Gianluca Omigliacchi, della fumettoteca Alessandro Calegati, Calle. Topolino! Topolino, lo storico giornalino tascabile con le avventure di topi e paperi, compie 70 anni. Il primo numero nel formato libretto, infatti, fu pubblicato da Mondadori il 7 aprile del 1949. Dalla prima edizione in formato giornale, 70 anni fa, la testata si trasforma in tascabile e, da allora, rimasto invariato nel suo formato, ha saputo evolversi e adeguarsi ai cambiamenti della società, accompagnando generazioni di italiani, dai primi passi nella lettura ai momenti piacevoli di svago, intrattenimento, ma anche di conoscenza e apprendimento. Se il topo più celebre del mondo è nato in America, dalla matita e dalla fantasia di Walt Disney, è in Italia che le sue avventure sono rese celebri e lette da milioni di bambini, ragazzi e adulti, grazie al giornalino settimanale. Il primo numero nel formato libretto, che da sempre lo contraddistingue, fu inizialmente edito da Mondadori, poi dalla Walt Disney Company Italia e infine dal numero 3019 del 2 ottobre 2013 passa alla Panini Comics, aprendo un nuovo capitolo della sua lunga e fortunata avventura. si può considerarlo un patrimonio italiano per via dei grandi autori italiani che ne hanno interpretato, ciascuno a modo proprio, i personaggi, i topi e i paperi. Sulle pagine di Topolino si sono cimentati e formati alcuni tra i più grandi artisti del fumetto nostrano, da Guido Martina a Luciano Bottaro, da Romano Scarpa a Giorgio Cavazzano, da Giovan Battista Carpi a Tito Faraci. Tanto lungo è l'elenco che citarli tutti è impossibile. La qualità delle storie realizzate dagli autori italiani è tale che sono state esportate in tutto il mondo: Francia, Germania, Spagna, Grecia, Inghilterra, America Latina, Russia, Polonia, Romania, Turchia, arrivando persino in Giappone e Cina, fino a varcare l'oceano per essere stampate negli stessi Stati Uniti. Il successo delle storie di Topolino Made in Italy è davvero planetario. Who's the leader of the front to take for you and me? M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. Hey there, hi there, ho there, go as rock a mess can be. Forever let us hold our banner high, high, high, high. Come along and sing the song and join the jamboree. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E. La settimana prossima riprenderemo la chiacchierata con Dorina Caroli per guardare l'evoluzione del pionierismo in Unione Sovietica durante l'età di Stalin e quella di Brezhnev negli anni 70, e sentiremo le parole di un grande dell'animazione in Italia e nel mondo, Bozzetto. Chi volesse sentire la trasmissione del podcast o sapere di più in dettaglio anche in internet, gli indirizzi sono www.radiocittafugico.it e poi www.ilpioniere.org. Quindi risentirci, ciao a tutti. Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va mai?